Tra le tante sciocchezze che l'onorevole Fini in questi giorni ha ammannito ai suoi volonterosi seguaci, ce n'è una che con tutta la buona volontà non possiamo proprio lasciargli passare. L'affermazione per cui la destra politica, come la intende lui, non è figlia del fascismo, nel senso che i suoi valori preesistono al fascismo, l'hanno attraversato e adesso sono sopravvissuti. Citazione letterale. E non perché si tratti di una proposizione patentemente falsa, come tante altre, no? Che in Italia e in Europa quanto a questo, e anche altrove, che in Italia allignassero fior dei reazionari quando il nonno dell'onorevole Mussolini esortava ancora le masse alla rivoluzione proletaria, è cosa fin troppo ovviamente vera. Ma quell'affermazione ricorda un po' il ragionamento di chi pretendesse di non discendere da suo padre ma da suo nonno. È tanto indiscutibile nell'enunciato affermativo quanto evidentemente assurdo in quello negativo. Ed è solo grazie alle ben note leggi della retorica se l'assunto positivo fa premio sul suo opposto. Scusandoci un po' per il sapore pedantesco della precisazione, diremmo che l'onorevole Fini ha voluto inserire nel suo discorso un esempio tipico di quella figura retorica che i vecchi manuali chiamavano un paradosso. I paradossi, d'altronde, caratterizzano il momento politico in cui viviamo. Quando la sinistra vota la fiducia a questo governo, o quando al congresso del coordinamento abolizionista partecipa Muccioli, non è il caso di stupirsi di niente. E verrebbe quasi voglia di lasciare a Fini la sua trovatina retorica, magari di ritorcergliela contro, perché anche noi possiamo trovare degli antenati nobili volendo. Ma c'è un dato storico che nessuno può far finta di ignorare e che dovrebbe impedire a chiunque di ricorrere a delle facili scappatoie di questo genere. Il fascismo, nella sua pochezza ideologica, non ha inventato i valori della destra, sicuramente. Anzi, nell'arengo del pensiero politico reazionario, in un certo senso è l'ultimo venuto. E come tale è stato trattato a suo tempo da pensatori per cui la destra aveva tutto da perdere a mescolarsi con parvenir di quella fatta. Non so, pensiamo alle cose terribili che diceva sul fascismo un conservatore autentico come Ortega y Gasset, no? Ma il suo marchio distintivo, il marchio distintivo del fascismo, è proprio quello di aver saputo adattare quei valori a certe evidenti necessità del mondo moderno. Cioè la capacità di proporsi come il tramite attraverso cui il vecchio elitismo ottocentesco, che era nato come rifiuto della società industriale, quindi era affatto impraticabile a fini politici concreti, poteva farsi strumento di gestione del potere dell'organizzazione gerarchica dello Stato e dell'economia. Folklore romano e ciorpame ideologico a parte, il fascismo si è caratterizzato per essere stato il primo e finora unico, credo, movimento reazionario di massa, e nella moderna società dei consumi di massa e delle comunicazioni di massa rappresenta come minimo una tentazione permanente. Il pensiero della destra prefascista si fonda su delle realtà sociali troppo lontane per essere di utilità chi che sia, e non per niente in Italia negli ultimi 50 anni è sempre stato piuttosto difficile essere di destra senza essere fascista, quasi impossibile, o perlomeno essere di destra senza riconoscere sottobanco al fascismo il ruolo che gli si negava ufficialmente. Che è poi in sostanza lo stesso problema discusso in questi giorni a Fiuggi e dintorni, con tanta partecipazione di persone importanti. A Fini, che gode fama di essere un buon politico, ma non sembra un grandissimo pensatore, i problemi teorici non devono importare più di tanto. E lui vuole essere, come si dice adesso, sdoganato, deve ovviamente trovare il modo di dire e non dire, di affermare negando, e a questo servono da sempre le ambiguità e i paradossi. Ma il vero paradosso a cui deve far fronte è che, anche se evidentemente ha deciso di rinunciare a tutto ciò che nella sua tradizione non è più utile, per tradizione lui e i suoi, a chi comanda l'Italia, sono utili soltanto per un motivo, perché sono fascisti. E questo è un paradosso che non gli sarà tanto facile eludere.